Io so che ciò che ho è frutto del mio sacco, è ciò che io non ho dentro di me. Da ragazzino gli sembrava tutto semplice, ciò che voleva lo indicava solo con l'indice. Credeva che la vita gli avrebbe sempre sorriso e non pensava che il futuro lasciasse segni sul viso. Dentro il suo petto più sogni che in un cassetto, stava privo di un assetto e pieno di spensieratezza. Ma la saggezza dei vecchi per lui era fezza, non capivi i sacrifici negli uffici e stavi in piazza. Alternativo con i soldi del papà che penserà all'eredità, gli comprerà pure il diploma, così lui farà carriera. Ma nella mala maniera, dentro questa atmosfera il capitale consuma, perché figlio del benessere con gli occhiali carrere, come il genio della lampada suo padre sogna vera, e per la vita intera ogni gara sarà promosso. Il papà gli sforzerà i milioni per comprargli il posto, e ha tutto pronto, merito per cognome, e adesso a 20 anni già ricopre una mansione. Raccomandato come figlio di bossi, il che vive da ignorante ma tra quelli ben messi, persi nella gloria dei propri successi, ma poco meritati in quanto frutti del potere, con pochi sacrifici lui ha benefici ed amici che gli stanno solo accanto per possedere il suo avere. Io qui non capisco più niente, c'è chi deve tutto un parente, ma so che distingue il profumo dei figli di papà e dei figli di nessuno. Io qui non capisco più niente, c'è chi deve tutto un parente, ma so che distingue il profumo dei figli di papà e dei figli di nessuno. Io so che ciò che ho è frutto del mio sacco, è ciò che io non ho dentro di me lo cerco. Che figlio di nessuno invece vaga senza meta, con un misero salario precario in costante dieta, mentre i sogni che sognava affondano come una nave, messi dentro un cassetto con il lucchetto e senza chiave. Fa il servo della glebe, paga doppio gli interessi, è sempre l'unico che scobba laureato la vicessi, e chiedi permessi concessi per qualche minuto, e se il suo capo lo rimprovera china la testa muto. È quello che si trova sempre fuori da ogni lista, che ogni festa se la passa a lavorare per due spicci, e manda alla famiglia i soldi per darle una mano. Piano piano si ritrova a non comprarsi neanche i lacci, è quello che non sa come farà per il futuro, che non sa se riuscirà a pagarsi l'università, che resta con la pelle nuda e con le spalle al muro. Si indurisce ed acquisisce sempre più maturità, sottoposto ogni giudizio, senza posto e senza vizio, paga sempre il suo dazio e con poco rimane sazio, anche se nella vita non vive come uno sceicco, sa che quella farina è solo frutto del suo sacco. Io so che ciò che ho è frutto del mio sacco, è ciò che io non ho dentro di me lo cerco. Io qui non capisco più niente, c'è chi deve tutto un parente, ma so che distingue il profumo dei figli di papà e dei figli di nessuno. Io qui non capisco più niente, c'è chi deve tutto un parente, ma so che distingue il profumo dei figli di papà e dei figli di nessuno. Io so che ciò che ho è frutto del mio sacco, è ciò che io non ho dentro di me lo cerco. Io qui non capisco più niente, c'è chi deve tutto un parente, ma so che distingue il profumo dei figli di papà e dei figli di nessuno.